boy for I do. Sono sentito molto male, sono un sentimentalista, ho avvertito in me il Natale, avvertito dal dentista, rende a maggio. Un cervo senza servo sterzo, sopra il cervo c'è una troia, non ascolta e non ingoia. Ho già perso una cerbiatta che si mangia la formaggia. Si pensano indietro, ora è tardi, dice Pietro. Devo cantare qua?